in primo piano. Buongiorno, bentrovati alla rassegna stampa di Radio 24. Oggi, come potete immaginare, i temi che dominano le prime pagine dei quotidiani italiani sono, da una parte, quello che sta succedendo in Crimea con il referendum che si è aperto proprio adesso, credo, perché alle 7 ora, no, in realtà loro sono indietro un'ora, quindi si aprirà tra poco alle loro 7, quindi le nostre 8, e con le reazioni dell'Unione Europea e della Russia. E poi naturalmente c'è quello che è stato chiamato il tour europeo di Renzi, che è partito da Parigi e che poi lo porterà a incontrare la Merkel in Germania. Ma partiamo quindi dal Corriere della Sera, che è, diciamo, l'unico dei grandi quotidiani proprio a scegliere come apertura la crisi in Ucraina. Il titolo è: ci invadono, tra virgolette, truppe russe in Ucraina, tensione al confine della Crimea, con richiamata nell'occhiello la reazione degli Stati Uniti, Mosca si fermi o ne risponderà. La foto è quella di un soldato russo in pieno assetto da guerra, con il suo elmetto e col viso quasi completamente coperto, e sullo sfondo la bandiera russa. Vi leggo un passo dell'editoriale di Franco Venturini, esperto di politica estera, perché come sempre ripeto, è una questione talmente complicata per noi da comprendere che, appunto, più che la cronaca, che tra l'altro naturalmente vi verrà raccontata nei GR, serve cercare di capire un po' qual è lo scenario. L'articolo si intitola "A un passo dall'incendio". La caricatura di un referendum sancirà oggi il ritorno della Crimea alla Russia. Ma sono le ore della vigilia ad aver dimostrato con quanta facilità, a forza di giocare con il fuoco, l'incendio della guerra possa investire l'Europa. Sulla rete sono apparsi appelli alla resistenza armata, non si sa quanto autentici. L'esercito regolare ucraino ha spostato truppe verso est, mentre quello russo si è mosso al di là del confine. Uno scontro diretto tra soldati ucraini e forze russe è stato sfiorato a nord dell'accesso alla penisola contesa, quando soldati senza mostrine hanno preso il controllo di un gasdotto. Si è temuto che fosse giunto il segnale che tutti in Occidente paventavano: l'inizio di un'invasione dell'Ucraina orientale da parte delle forze russe. E poi vi leggo l'ultima parte. A Mosca sembrano rivaleggiare due scuole di pensiero. La prima: interveniamo anche nell'Ucraina orientale, tanto le sanzioni occidentali arriveranno comunque. Poi tratterremo e proporremo una federazione cuscinetto. La seconda: non possiamo permetterci di rompere con l'Occidente, il gas lo dobbiamo vendere, non vogliamo che siano gli USA a sostituirci come fornitori e non vogliamo finire nelle braccia della Cina. Dunque sia la trattativa e sia il gruppo di contatto, ma la Crimea resta con noi. È probabile che Putin preferisca la prima opzione e rifletta sulla seconda. L'Occidente dovrà castigarlo comunque, ma tra le due ipotesi c'è di mezzo una possibile guerra civile sotto gli occhi di un'Europa a pezzi. Poi vi dicevo, dalla prima pagina del Corriere, anche appunto la cronaca su questo tour europeo di Matteo Renzi. Il titolo è "Il patto Renzi-Hollande, ora crescita e lavoro", e il Premier ha ribadito a Parigi, dopo i timori, dopo la conferenza stampa a Fiume di mercoledì in cui ha annunciato tutte le misure per l'economia, ha ribadito: non sforeremo il famoso tetto del 3% di rapporto tra deficit e PIL. Mi segnala la vignetta di Giannelli che vede Renzi al Louvre di fianco a Louvre non c'è stato, in realtà la moglie è andata a vedere il Musée d'Orsay, ma lui si è occupato solo di politica. Però insomma, in questa vignetta Giannelli lo immagina vicino alla Gioconda, la Gioconda con il telefonino vuole assolutamente una foto ricordo con Renzi, popolarità, e Monna Lisa volle una foto ricordo. La Repubblica, vi dicevo, no, a differenza del Corriere, proprio titola sulla questione Renzi, quindi Renzi Hollande sfida la Merkel. C'è l'ipotesi, molti fanno questa ipotesi, di un nuovo asse, anziché franco-tedesco, franco-italiano, un po' appunto contro la Merkel, ma vedremo nei prossimi giorni. Il Premier ha detto: a Berlino vado da alleato, non come uno studente che si va a fare interrogare. E la fotonotizia però richiama l'altro grande tema, quello dell'Ucraina, perché oggi appunto c'è il referendum, tra pochi minuti inizia, per l'annessione della Crimea alla Russia. A Kiev, anche qui Repubblica riprende l'allarme su cui Corriere ha titolato: i russi ci invadono, li colpiremo. E a Mosca, intanto, segnala Repubblica, ieri c'è stata una manifestazione, 50.000 persone sono scese in piazza per manifestare contro l'atteggiamento di Putin. Qui il commento di Bernardo Valli, che è inviato a Kiev, e si intitola "Folle domenica della storia". Dalla prima pagina della Repubblica vi segnalo anche, poi ci sono due pagine all'interno che, se avremo tempo, guarderemo, questo giallo incredibile di questo Boeing fantasma, perché sapete L'ultima notizia è che volò ancora 7 ore dopo l'uscita dai radar, e quindi Ettore Livini e Gianpaolo Visetti ci raccontano appunto che cosa sta succedendo adesso, quali sono le possibili ipotesi, e su questo 777, scusatemi, completamente di fatto di cui ancora non si conosce la sorte. Passiamo alla prima pagina del Sole 24 Ore, che titola su questo ipotetico patto Italia-Francia sulla crescita, e anche qui l'importante affermazione di Renzi, che ha ribadito, cercando un po' di annullare all'origine le critiche che gli venivano fatte su questo piano così ambizioso per l'economia, che rischia però di far saltare i famosi parametri europei, ha ribadito: non sfonderemo il 3%. E c'è un'analisi di Dino Pesole che si intitola Lo scoglio dello 0,4%, e vi leggo le prime righe per capire di che cosa si tratta. Spuntare dalla Commissione Europea, peraltro prossima alla scadenza, sapete che tra poco appunto con le elezioni di maggio scade anche il cosiddetto governo europeo, cioè la Commissione Europea, quindi mancano pochi mesi. Il via libera ad aumentare il deficit dal 2,6 al 2,8 al 2,9 non pare sulla carta una missione impossibile, anche se lastricata di non poche difficoltà. E l'articolo prosegue a pagina 2. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo anche un'intervista al ministro delle Infrastrutture Lupi, che spiega come ci saranno nuovi incentivi fiscali a chi investe in banda larga. Sapete che l'Italia siamo ancora un po' indietro sulla banda larga, siamo il paese con la più alta penetrazione di telefonini, per esempio di smartphone proprio, però abbiamo ancora dei problemi sulla banda larga, e quindi il ministro Lupi ribadisce che questa è una delle priorità del suo ministero e quindi anche del governo. La consueta lettera al risparmiatore che ogni domenica Vittorio Carlini dedica a una delle società quotate in borsa, oggi è dedicata alla Amplifon vuole più redditività e dalla rete di negozi guarda al Brasile. Trovate poi l'intera analisi del bilancio e delle prospettive di questa società quotata a pagina 22. Vi segnalo infine, poi magari se abbiamo tempo ne leggiamo un brano, l'articolo di Rita Faticuso, che è la corrispondente dalla Cina del Sole 24 Ore, perché domani c'è un'importante novità per la Cina, e cioè lo yuan, il renminbi, la loro moneta, che finora è stata tenuta fissa, con tutti i vantaggi per la Cina e gli svantaggi per molti altri paesi, soprattutto quelli legati allo yuan, è che da domani è stato finalmente introdotto un piccolo oscillamento. È un oscillamento soltanto del 2%, ma è già qualche cosa. Vi leggo le prime righe. Pechino stringe i tempi della piena convertibilità valutaria. La banca centrale cinese ha allargato la banda d'oscillazione del renminbi nei confronti del dollaro, portandola dall'1 al 2%. La decisione, operativa da domani, era attesa da alcune settimane, in particolare da quando le autorità monetarie avevano iniziato a pilotare verso il basso il rapporto di cambio dello yuan attraverso interventi sul mercato per arginare la speculazione. La prima pagina della Stampa: Renzi rassicura l'Europa, sempre la questione del 3%. E poi questa apparente intesa tra Renzi e Hollande sulla necessità che l'Unione Europea cambi, e naturalmente il riferimento è all'atteggiamento troppo rigido della Germania. La fotonotizia anche in questo caso è dedicata alla Russia. Qui è una bella fotonotizia perché fa vedere delle urne che sono in realtà urne molto simili a quelle che abbiamo anche noi, cioè delle cabine, delle strutture di legno con davanti una specie di lenzuolo, però qui i lenzuoli hanno anche i colori della bandiera russa, quindi rosso, blu e bianco. Oggi il referendum in Crimea, attenzione ai confini ucraini. All'ONU c'è stata una presa di posizione della Cina che ha, secondo la Stampa, mollato Putin. L'analisi qui di Lucia Sgueglia, inviata a Simferopoli della Stampa, il leader con un'intervista a un leader separatista che ribadisce quanto sia urgente per la minoranza russa dell'Ucraina, quindi soprattutto residenti in Crimea, l'annessione a Mosca. Abbiamo 8.000 uomini disposti ad aiutare i nostri fratelli perseguitati, non siamo ancora pronti per l'Europa, perché sapete che fin dall'inizio questa crisi è stata spacciata anche come una spaccatura tra chi in Ucraina voleva avvicinarsi all'Europa, magari anche iniziare dei negoziati per l'annessione, e chi invece voleva mantenere dei rapporti molto più stretti con la Russia di Putin. La prima pagina del Messaggero: Kiev, invasi dai russi, reagiremo. In questo caso la fotonotizia è dedicata all'aereo scomparso e alla notizia che è arrivata ieri, che appunto l'aereo avrebbe volato 7 ore dopo col blackout. E poi, visto che il Messaggero è il quotidiano di Roma, un riferimento in prima pagina con tutti gli aggiornamenti sull'inchiesta sulle baby squillo, che sapete ha coinvolto molti personaggi famosi, tra i quali il marito della deputata Alessandra Mussolini. Ci fermiamo un attimo per il meteo, ci risentiamo subito dopo. In primo piano. Bentornati alla rassegna stampa dei quotidiani. Eravamo sulle prime pagine, abbiamo visto come il tema dominante sia quello della crisi in Ucraina, con il referendum che si sta svolgendo in Ucraina per il ritorno dell'Ucraina alla Russia, e l'altro tema è il viaggio di Renzi a Parigi, che poi proseguirà con una tappa a Berlino. Ma vediamo la prima pagina del giornale, che invece ha un'apertura diversa, anche se subito sotto il nome del giornale c'è un richiamo con un reportage poi a pagina 12 di Fausto Biloslavo sulla crisi ucraina, e con appunto le accuse di Kiev: i russi ci invadono, reagiremo. Vi dicevo, l'apertura è completamente diversa, è un articolo di Alessandro Sallusti, il direttore del giornale, intitolato "Disobbediamo, una firma per candidare Berlusconi". Sapete che Berlusconi in questo momento non è candidabile alle elezioni europee, non è candidabile ad alcuna elezione, e le elezioni europee di maggio però lui vorrebbe, ha detto che se si riuscirà a renderlo candidabile, lui è ben felice di candidarsi. E allora il giornale ha lanciato questa iniziativa, appunto si può mandare un'email o un fax, sulla prima pagina del giornale ci sono i riferimenti, per lanciare questo appello, una firma per candidare Berlusconi, per l'appunto. Vediamo la prima pagina dell'Unità, qui l'Unità sceglie di titolare su quello che si sono detti François Hollande, Matteo Renzi nel loro incontro all'Eliseo: lavoro, la svolta di Parigi, ci sarebbe appunto questo patto tra il premier italiano e il presidente francese, crescita e occupazione sono la vera emergenza, hanno concordato per entrambi i paesi, e l'Europa deve cambiare atteggiamento per favorire appunto una ripresa della crescita. L'Italia, anche in questo caso l'Unità ricorda le parole chiare di Matteo Renzi, l'Italia non sferrerà quel famoso tetto del 3%, e poi naturalmente ci sono tutte le ipotesi su quello che succederà domani in questo faccia a faccia con Angela Merkel. Vi segnalo poi la prima pagina del Manifesto, invece sapete il Manifesto sceglie sempre, quasi sempre, dei titoli molto a effetto, quasi o dei giochi di parole o dei modi così anche molto evocativi di raccontare la realtà. Oggi è guerra o pace, non guerra e pace, forse il più famoso romanzo di Tolstoi, forse uno dei più famosi romanzi della letteratura russa. La foto è quella di persone in piazza con una bandiera russa che sventola. In Crimea, al giorno del referendum per l'indipendenza, a Mosca in migliaia, lo abbiamo visto anche sul Messaggero, a Mosca in migliaia protestano contro l'intervento armato. Nelle regioni orientali dell'Ucraina, nuovi scontri tra filorussi e neonazisti pro Kiev, con 2 morti. Poi un accenno a Parigi: Spidi Renzi e la lumaca Hollande, la Francia non molla Berlino. Vedete che le interpretazioni, perché naturalmente nessuno era veramente presente al colloquio, lì c'è stata poi una conferenza stampa, però cosa si siano veramente detti, le sfumature di quello che si sono detti tra Hollande e Renzi, non lo possiamo davvero sapere. Quindi, mentre avete visto che alcuni giornali interpretano un nascente patto franco-italiano, qui il Messaggero invece dice la Francia non molla a Berlino, quindi resterebbe l'asse franco-tedesco, vedremo. Ma vi segnalo dal Manifesto anche un'intervista a Don Ciotti, perché sapete che ieri è stato annunciato questo importante incontro tra il Papa e le vittime e le famiglie delle vittime delle mafie, che si terrà il 21 marzo, e quindi Carlo Lania intervista Don Ciotti, il fondatore dell'associazione Libera: è la prima volta che un Papa partecipa alla giornata della memoria per le vittime delle mafie. Come nasce questo evento? Risponde Don Ciotti: da un incontro con lui in cui abbiamo riflettuto insieme. Non ha esitato ad accettare di essere presente a questo momento di riflessione, di silenzio e anche di preghiera. Per noi è un grande dono e un segno di grande, grande valore. E poi vi leggo l'ultima domanda. Sapete che è stata una delle prime nomine di Renzi, è stata quella di Raffaele Cantone, magistrato all'autorità anticorruzione, e il Manifesto chiede a Don Ciotti come valuta questa nomina. Don Ciotti risponde: Cantone è una persona brava, generosa e soprattutto competente, quindi benvenga, ma una nomina non basta, il problema è più vasto. Le mafie hanno ripreso alla grande con nuove modalità, hanno nuove strategie, usano nuove tecnologie, sono tornate a essere forti in un momento di grande crisi economica, finanziaria. loro hanno liquidità e investono. Lo Stato, gli apparati istituzionali hanno fatto delle cose importanti in questi anni, ma non sono sufficienti. Bisogna mettere in grado magistratura e polizia di agire meglio, con più strumenti, uomini e mezzi. Forse servono meno leggi e più legge. Bisogna rivedere i reati che nell'82 vennero definiti di mafia, perché nel frattempo le cose sono cambiate. Molto interessante questa intervista, appunto, sul Manifesto. Prima pagina del Fatto Quotidiano, il lavoro secondo Matteo, Poletti e Farinetti. Poletti, sapete, il ministro del lavoro, ex numero uno delle COP, e poi Farinetti, Oscar Farinetti, il patron di Italy, che martedì inaugura questa grande sede a Milano, martedì 18 marzo. Ci sono un po' di polemiche sugli stipendi che Farinetti pagherebbe, perché Farinetti viene visto come uno sponsor del Premier, come un uomo di sinistra, come un imprenditore di sinistra. Poi il Fatto però cerca anche un po' di fargli il Fatto, ma non solo il Fatto, anche sul Giornale c'è un articolo su questi temi, e appunto a pagina 2 c'è un articolo intero di Davide Vecchi, il mega Italy di Milano, da fame sono anche i salari. Vi segnalo la prima pagina della Gazzetta dello Sport, perché ieri c'è stato l'anticipo della Serie A, l'Inter ha vinto a Verona 2-0, i nerazzurri vincono a Verona 2-0, quindi il titolo è Inter da grande. L'Inter in questo momento è un abisso dalla capolista Juventus, però è al quarto posto. Vi segnalo anche un articolo su Silvia Pennetta, perché ieri a Indian Wells la tennista italiana ha sconfitto una grande tennista cinese, Lina, e stasera c'è una finale che vale $1 milione e dove la nostra tennista incontrerà la Radvanska, e poi vabbè, qui si ipotizza un flirt di Silvia Pennetta con Fognini. Vabbè, chi vuole può leggere anche la parte sportiva e il retroscena sentimentale. Dal secolo XIX vi segnalo un titolo che è un po' diverso dagli altri: statali assunzioni bloccate. Cioè, secondo il secolo XIX, che è il quotidiano di Genova, ci sarebbe questo stop in vista per 90.000 incarichi, poi viene richiamato questo ipotetico patto Renzi-Hollande sul lavoro. Ma vi segnalo, perché l'ho trovata curiosa, c'è anche su altri giornali ma non in prima pagina, un episodio sull'allenatore della Sampdoria Mihajlovic, che ieri si è presentato in conferenza stampa citando un canto dell'inferno. Lo conosco a memoria ma preferisco leggerlo. Considerate la vostra semenza, fatti non foste per vivere come bruti ma per seguir virtù e conoscenza. È calato il silenzio nella saletta del Munaini, trasformato in aula di liceo. E ha spiegato Mihajlovic che l'autore, per chi non l'avesse lì in quella saletta non l'avesse compreso, è colui che viene chiamato il sommo poeta, ha detto appunto Mihajlovic, che è l'allenatore serbo della Sampdoria. Non so declamarlo come Benigni, ma mi è rimasto impresso questo passo in cui Dante riferisce di Ulisse che incita i suoi ad andare oltre le colonne d'Ercole. Per la sfida contro l'Atalanta voglio fare lo stesso e spronare i miei ragazzi ad andare avanti senza accontentarsi. E va bene, e Dante usato anche per spronare i giocatori della Sampdoria, ma va bene così. La Padania, vi segnalo la prima pagina della Padania, perché la Lega ha promosso questo che viene chiamato Basta Euro Tour, e ieri c'è stata una tappa torinese di questa Basta Euro Tour. La foto è di Matteo Salvini, segretario della Lega, è un virgolettato suo, è il titolo della copertina della Padania. Il 25 maggio non fate gli Euro Pirla, il 25 maggio è il giorno delle elezioni. E Matteo Salvini, appunto, come segretario della Lega, incita a non fare gli Europirla, suppongo voglia dire a votare per loro e non per altri partiti che non ci pensano nemmeno di proporre l'uscita dall'euro. E questo Basta Euro Tour poi proseguirà fino al 10 maggio, ci sono tutte le date sulla Padania. Veniamo alle pagine interne dei quotidiani. Visto che abbiamo parlato anche di forze dell'ordine e di spending review tanto nei giorni scorsi, c'è una pagina intera curata da Fiorenza Sarzanini a pagina 5 del Corriere: polizia, carabinieri e vigili del fuoco, il piano per tagliare 700 milioni. Abbiamo sentito tante volte notizie di cronaca in cui magari si veniva a sapere che manca persino la benzina in alcuni casi ad alcune macchine della polizia, ma sicuramente ci sono anche degli sprechi, li avrebbe individuati Cottarelli. Ecco, per esempio, un piano appunto per sopprimere 300 uffici inutili. C'è una mappa dell'Italia con tutto quello che secondo questo piano di risparmio del 700 milioni, di quello di cui si potrebbe fare a meno. Ci sarebbe però anche previsto un investimento unico per il rinnovo appunto del parco macchine, e c'è proprio uno schema, oltre a una mappa dell'Italia con tutte le sedi che verrebbero cancellate, con divise in commissariati, sedi della polizia stradale e sedi di frontiera, con gli uffici che si intendono sopprimere entro, pensate, la prossima estate. Ci fermiamo un attimo per il traffico e ci ritroviamo subito dopo. in primo piano. Ancora ben trovati da Giulia Crivelli, eravamo nelle pagine interne dei quotidiani, vi segnalo dal Corriere a pagina 15 un reportage di Alessandra Coppola da Mari, è stata in Svezia, su una questione che anche qui purtroppo sparisce un po' dai radar dell'informazione, è la Siria, la crisi in Siria, tutt'altro che risolta, lo sapete, e il titolo della reportage è Una stanza tra gli alberi per Najen, il sogno svedese dei siriani in fuga. Se l'Italia, infatti, ci racconta Alessandra Coppola, è la principale porta d'ingresso per chi richiede asilo politico, poi in realtà è la penisola scandinava spesso la destinazione finale, e appunto ci racconta la giornalista del Corriere della Sera come siano 24.726 i rifugiati siriani accolti dall'inizio del conflitto dalla Svezia. L'Italia ne ha ospitati 1.535, più o meno il numero di persone che Stoccolma accoglie ogni mese. Dalle pagine interne della Repubblica vi segnalo quelle che sono le stime della CGA con i dati di Banca Italia su come verranno spesi questi 10 miliardi di aumento delle detrazioni per il lavoro dipendente, sapete questi 80, 85, forse qualcosa di più euro che andranno nelle buste paga di chi guadagna circa 1.500 euro in maggio. Alimentari, trasporti e abiti, le famiglie spenderanno così i 9 miliardi del bonus IRPEF, è un'ipotesi appunto, sapete che anche su questo molti economisti e molti esperti erano divisi. È meglio come stimolo per la domanda interna che è bloccata da anni, 80 euro in più in busta paga, oppure è meglio aiutare le imprese tagliando l'IRAP? È stata scelta questa strada, la CGA di Mestre dice che potrebbe esserci effettivamente un effetto positivo, staremo appunto a vedere nei mesi successivi a maggio. Dalla Repubblica un'intervista a Cuperlo, il grande sconfitto delle primarie democratiche da cui uscì vincente Renzi e poi tutte le conseguenze che sappiamo con la sua rapidissima ascesa a Premier, e il titolo che Repubblica sceglie è Renzi irriverente ma sulla rotta giusta, deve evitare la tentazione plebiscitaria. Un sollievo, Cuperlo non è forse così, non rema così contro come a volte viene dipinto, se fallisce è un dramma, dice Cuperlo, il cavaliere è in lista, abbiamo visto appunto le ipotesi di una candidatura di Berlusconi alle europee, e Cuperlo dice spero proprio di no. Dalle pagine interne della Repubblica vi dicevo le due pagine dedicate a questa vicenda incredibile dell'aereo, con il corrispondente Giampaolo Visetti da Pechino, e poi un'intervista di Ettore Livini, non un'intervista ma una domanda e risposta molto interessante per capire ma come fa un aereo a svanire nel nulla, come è possibile evitare i radar, tutte queste domande che secondo me in tanti ci stiamo facendo. Comunque il titolo delle due pagine è Aereo Fantasma, l'ultimo giallo è rimasto in velo per 7 ore, rispunta l'ipotesi di rottamento. C'è su tutti i giornali, ma ve lo segnalo da pagina 24 perché l'articolo di Federico Rampini che segue questi temi insieme a tantissimi altri da molti anni è la notizia che la svolta di Obama, che internet non avrà, gli Stati Uniti non avranno più il controllo degli indirizzi con il famoso ente ICANN, dal 2015 questo ICANN sarà sostituito da un ente internazionale. C'è anche qui uno schema molto utile per capire che cos'è davvero questo ICANN e poi la decisione. Sulle 24 ore vi risegnalo tutta l'analisi perché è una questione che ci riguarda tutti, a pagina 8 di Rita Fatiguso sulla oscillazione che da domani lunedì riguarderà lo yuan, il renminbi, la moneta cinese che oscillerà del 2%, e poi passiamo ai supplementi culturali perché purtroppo come sempre abbiamo pochissimo tempo, invece la domenica sono così ricchi ed è così un'opportunità per leggere cose un po' diverse. Partiamo dalla domenica del Sole 24 ore, come sempre dal breviario di Gianfranco Ravasi che oggi è intitolato Lo scetticismo. La citazione è di Friedrich Nietzsche: solo se un uomo ha una fede robusta può indulgere al lusso dello scetticismo. Forse non lo si immagina, scrive Ravasi, ma è stato l'irreligioso e anticristiano Nietzsche a proporre questa osservazione nel Crepuscolo degli Idoli. Molti confondono la fede col fideismo cieco. Un credente autentico come il Giobbe biblico ha invece un'anima tutta artigliata da interrogativi su Dio e persino contro Dio. Aveva ragione il filosofo e scienziato Émile Poincaré quando ammoniva che dubitare di tutto o credere a tutto sono due soluzioni ugualmente comode che ci dispensano l'una come l'altra dal riflettere. Il percorso del credente autentico è quindi tutt'altro che pianeggiante e solare. Conosce l'erta affannosa del Monte Moria, sul quale Abramo, nostro padre nella fede, come lo definirà San Paolo, ascende sotto un cielo muto e cupo, ove echeggia al massimo l'ordine divino sconcertante di sacrificare il figlio donatogli proprio da Dio, Isacco. La fede robusta è sì stare su una rupe solida, ma per raggiungerla è necessario attraversare molte paludi, e credente rimane sempre un participio presente che esige di essere declinato di nuovo ogni giorno. La copertina, che poi sono sicura che poi del domenicale si parlerà anche, si può fare tra qualche minuto. Comunque la prima pagina è un articolo di Massimo Firpo, Erasmo e il Giulio Cesare dei Papi, definitivamente attribuito al grande umanista, al dialogo che nel 1517 metteva la berlina il pontefice Giulio II. Poi in prima pagina c'è anche il memorandum del nostro direttore Roberto Napoletano, dico nostro perché sia direttore del Sole 24 Ore che di Radio 24, che sapete ultimamente si sta molto dedicando al sud e a questa fuga che c'è dal sud verso il nord dei giovani. La settimana scorsa era tutto dedicato a Matera, questa settimana a Ragusa, la fame dei ragazzi di Ragusa e l'Italia da rifare. Dalle pagine interne vi segnalo la recensione di Franco Giudice a un nuovo libro uscito in America su Descartes, cioè Cartesio, The Philosopher, The Priest and the Painter, A Portrait of Descartes, e il titolo della recensione è René Descartes, l'olandese, gli anni, perché il libro si focalizza soprattutto sugli anni in cui il grande filosofo si impegnò a dimostrare le verità metafisiche con evidenza maggiore di quelle geometriche. Mentre a Parigi gravitò nella sfera di Padre Marcin, Harlem, che sapete è la città olandese che poi diede il nome al quartiere di Manhattan, perché tra i primi ad arrivare a Manhattan, a New York, furono i navigatori olandesi, bene, Harlem, scritto con due A, fu la città in cui strinse una profonda amicizia con due preti, Blomart e Ban. Poi un articolo di Carlo Melzi de Lille e Giulio Vigevani sul Senato che vorremmo, perché sapete che la riforma elettorale prevede appunto l'abolizione del bicameralismo perfetto e quindi l'abolizione del Senato così come lo conosciamo adesso. E quindi il Senato dovrà diventare qualcos'altro, non è ancora ben chiaro che cosa, e quindi qui ci si fa alcune domande, per esempio come scegliere i nuovi senatori, ha senso la presenza di città e regioni per dar voce al territorio, ma ancor più devono pesare competenze e cultura. E poi una recensione a una mostra che si è appena aperta a Roma, alle Scuderie del Quirinale, dedicata alla pittrice messicana Frida Kahlo, che ha ispirato tantissimi altri pittori, ma anche stilisti e anche movimenti, l'accappatoio di Frida Kahlo. Le Scuderie del Quirinale ospitano la prima retrospettiva in Italia dell'artista messicana, presenti 160 opere. E vi segnalo poi la lettura del Corriere della Sera, il supplemento della domenica del Corriere, che sapete dedica sempre la copertina a un artista. Oggi l'artista che ha lavorato per la lettura è Bernardo Siciliano, con un dipinto. Bernardo Siciliano è un po' specializzato in questi paesaggi urbani, quindi è un paesaggio un po' onirico, dice Bernardo Siciliano, che il Corriere dà la possibilità agli artisti, se vogliono, di mettere anche una citazione per spiegare la loro opera sulla copertina. La pittura per me è prima di tutto disegno. La luce nasce come forma da costruire per poi diventare colore. E poi dalla pagina intera della lettura si segnala un articolo di Massimo Gaggi, che è inviato a New York, e ci racconta come adesso il lavoro sia un affare di cuore. Che cosa vuol dire? Che si studiano con modelli statistici, con tutte le cautele che forse dovrebbero ispirarci in questo caso, a incrociare le persone che devono lavorare nello stesso luogo di lavoro a seconda dei loro gusti, lasciando queste ipotetiche affinità, di scegliere quali sono queste ipotetiche affinità ai computer e non magari ai curriculum. Così le aziende cercano personale ricorrendo a big data e videogiochi e all'algoritmo che trova il partner. Ebbene sì, viene usato anche quello. E poi un articolo, un'intervista di Serena Danna a Vikram Chandra, che è un grande scrittore indoamericano, ma è stato anche un programmatore, e da qui il titolo Narra programmatore. Racconta Vikram Chandra a Serena Danna: creare per un computer è come costruire romanzi, che però vivono di ambiguità. Lo scrittore racconta il suo debito estetico ed esistenziale nei confronti dell'informatica e avverte: non temete la tecnologia. La Domenica della Repubblica invece la copertina è dedicata a Berlinguer, perché ti abbiamo voluto bene, il trentennale della morte. Berlinguer morì il 7 giugno dell'84, cioè fu colpito il 7 giugno dell'84 da questo ictus, quindi mancano ancora in realtà un po' di mesi al vero anniversario, però c'è già un, anche perché è stato presentato un documentario di Walter Veltroni, quindi c'è un articolo di Eugenio Scalfari, e Eugenio Scalfari ricorda il comunista più amato dagli italiani. E poi sapete la mia passione per la poesia e per questa bella rubrica che ha Walter City ogni domenica sulla Repubblica, la poesia del mondo, oggi è dedicato a Leopardi, Leopardi non invecchia mai, e c'è una citazione, anzi c'è tutta la poesia, credo, c'è l'infinito di Leopardi, e il titolo è Il vecchio Leopardi si vergogna del giovane autore dell'infinito. Infatti è un componimento del 1819, quando Leopardi aveva soltanto 21 anni, e poi si dice che poi passarono un po' di anni, Leopardi disse che insomma era una cosa un po' giovanile quella. Pensate quanto abbiamo celebrato poi l'infinito noi più tardi. E vi segnalo anche il supplemento del Messaggero della domenica, che si chiama Macro, e la copertina è bellissima, si chiama Vulcano America Latina, con tutto quello che succederà, dei dati per farci capire la popolazione, il PIL pro capite, la crescita dei grandi paesi dell'America Latina, ma anche quello che succederà nei prossimi mesi, perché naturalmente sono laboratori economici ma anche sociali. Fitta l'agenda degli appuntamenti elettorali, grandi cambiamenti sono alle porte, il boom economico degli ultimi anni sta rallentando, mette alla prova i governi. Venezuela e Argentina traballano, il miracoloso Brasile aspetta di conoscere l'esito delle prossime presidenziali, mentre il Messico è sempre più attratto dal Nord America. Era veramente l'ultima segnalazione che riusciamo a fare. Una buonissima domenica da Giulia Crivelli.